Matteo capitolo 28. Or nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che n'ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne, «Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli, «Egli è risuscitato da morti, ed ecco vi precede in Galilea, qui vi lo vedrete». Ecco, ve l'ho detto. E quelle, andatesene prestamente dal sepolcro con spavento ed allegrezza grande, corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo, «Vi saluto!» Ed esse accostatesi gli strinsero i piedi e l'adorarono. E allora Gesù disse loro, «Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Or, mentre quelle andavano, ecco alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, dettero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo, «Dite così, i suoi discepoli vennero di notte e lo rubarono mentre dormivamo». E semmai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi metteremo fuori pena. Ed essi, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quel dire è stato divulgato tra i giudei fino al dì d'oggi. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù accostatosi parlò loro dicendo, «Ogni podestà mi è stata data in cielo e sulla terra». Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vo' comandate. Ed ecco, io son con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente».